Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Cari amici di Ludico Forum, bentornati a questa puntata 1x02 dal titolo incomprensibile e soprattutto irripetibile e che non andrò a ripetere. Ma intanto, prima di addentrarci in questa puntata, insomma, dove tratteremo alcuni argomenti apparentemente scollegati, ma in realtà sono collegati uno con l'altro, cominciamo a presentare i nostri partecipanti, amici e cumbari. Intanto iniziamo da Alex Raccuglia. Ciao a tutti. Ciao. Perché abbiamo scusa, musichetta? Scusa, è bella la musichetta, solo che era un po' troppo. Bella, cioè, troppo. Mi piaceva bella. Esatto. Walter Sbano. Oh, buonasera, bentrovati a tutti. Quindi Pizzi, mi confermi che devo mettere la tripla qui? La tripla, sì, si devi mettere 1x2 per forza. Ok, sì. Ok, benissimo, buonasera a tutti. Il nostro magister Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti, chi è che vuole un boero? Ah, yeah. Ma poi io non so neanche che so sti boero, ha detto il vero. Sono dei cioccolatini con dentro la ciliegia, tipo i Mon Cheri, però più potenti. Molto più potenti, benissimo. E c'è anche questa sera, pensate, addirittura, in collegamento internazionale, Marco Gualdi. Ecco, no, volevo sentire la sigla bellissima. Ti piace? È bellissima, infatti. Rimettila. Dopo la rimetto. No, Marco Gualdi. Dai. Lo vuoi? Marco Gualdi. Esatto, in buona tradizione runtime nuova era. Allora ragazzi, questa è la trasmissione che produco insieme ad Alex, ma insieme anche a tutti gli altri nostri amici, quindi Francesco Di Muro, Walter, vabbè, insomma, a parte i ragazzi che sono qua questa sera con noi, c'è chiaramente Carmine Puccio, che va sempre ricordato, Carlo Burigana, che tra l'altro ha fatto anche gli assets audio, insomma, la solita bellezza, insomma, le solite sigle. E basta, insomma. Simone Cusella, scusate perché mi stavo dimenticando. Faccio un piccolissimo disclaimer rispetto alla puntata zero, perché non mi ricordo se l'ho detto la puntata scorsa, ma durante la puntata zero ho fatto una battuta in un momento in cui stavamo facendo un ragionamento semiserio, forse un po'... un po' stridè, un po' bruttina, insomma, diciamo, chiedo scusa per quelli che magari si sono sentiti offesi. Vi ringrazio tantissimo per il feedback. Quando mi scrivete su Telegram in privato, non mi scrivete su Telegram in privato dicendomi posso parlarti in privato, perché oramai l'hai fatto, cioè nel senso, fatelo se volete, fatelo. Oppure scrivete posso continuare a parlarti in privato. Ha più senso. Esatto. Di solito quando chiedono così devi rispondere no. Così almeno poi capito, dopo che faccio? Cancello la chat, che faccio, insomma. Va bene. Questo è un po' alla fine. Alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che nella puntata zero in particolare, poi dopo dovremmo aver registrato, poi qui mi viene incontro Alex che è un po' più ferrato rispetto a me, che pare che in questa puntata zero c'erano 19 spot all'interno della puntata, sparsi a caso, no? Allora, intanto fate bene a segnalare la cosa, però non ve lamentate perché insomma sicuramente è stato un errore, nel senso non è che l'abbiamo fatto apposta, ma con quei spot noi ci campiamo, insomma, quindi non, Alex, che cosa potrebbe essere successo? Sa che avevo fatto qualche errore io, suppongo. Allora, tanto per cambiare tutti insieme diciamo Spreaker merda, ok? 1, 2, 3 Spreaker merda! Bravi. Allora, perché Spreaker ha deciso che loro vogliono fare i soldi, va bene? Ci sta. E quelli che gli diamo noi non bastano. Esatto, e allora fondamentalmente loro dicono, sai che c'è? Ti metto io in automatico, ci penso io, so io dove mettere gli spot, e solo che fondamentalmente non hanno questa loro questa capacità di farlo in maniera sensata, di conseguenza li mettono un po' a cazzo, così interrompendo un po' dove vogliono. E ogni tanto magari capita a qualcuno di noi di non essere particolarmente attento perché c'ha sonno, perché c'ha mille altre cose da fare, e finisce per fare un po' di casini. Va bene, oppure, chi se ne frega, oppure come faccio io che clicco cose a caso, diciamo anche così, perché... assolutamente. Io tendenzialmente nel mio podcast faccio proprio le pausine, ora adesso lo spot, e faccio la mia pernacchia solita, e poi se mi ricordo cerco di mettere il marker dello spot. Spreaker ti dice: guarda che hai messo troppo poca roba, tipo se è una trasmissione di 40 minuti loro, cioè, dovresti mettere almeno uno spot ogni 6 minuti. Capisci che il loro approccio è talmente greedy da diventare quasi fastidioso, anzi assolutamente fastidioso. Noi cerchiamo di fare quanto più del meglio del nostro meglio, se non ci riusciamo, ragazzi, ci abbiamo provato, e fateci un applauso per la fiducia. No, ma più che altro cerchiamo di mantenere un po' quella che è la decenza, insomma, chiaramente. Va bene, ragazzi, allora ecco il tema della puntata. In questo secondo episodio di Ludico Forum, meno verticale del precedente, parleremo di gaming nel senso più strettamente legato al modo di usufruire questa passione. Nello specifico ci faremo le seguenti domande. Nuove macchine Sony e Microsoft, dove va attacco? Dissertazione sugli accessori per godere in maniera soddisfacente delle nuove console. Lanciare le tecnologie 8K in un mondo ancora povero di 4K. Com'è la situazione? Tecnicamente abbiamo davvero bisogno di queste accelerazioni nell'ultra dettaglio? Futuro del gaming, è vero, cloud? Bene, bene, ringraziamo sempre il nostro carissimo amico Leo, insomma, Vargion, che non soltanto fa podcast all'interno di Runtime, ma ci presta, insomma, la sua voce quando c'è da fare i spiegheraggi. Allora, Walter, iniziamo da te, che sei quello che ha posto la domanda più pregna, quella che pregna, insomma, che poi penso è una domanda che si fanno un po' tutti ogni volta che c'è un cambio di generazione. Mangia il boero, Carlo, non ci pensare, mangia il boero. E stavo già mangiando il boero, quindi non ho detto niente. Non potevi parlare. Ma ogni volta che c'è un cambio di nuova console, ecco, diciamo, vai, Walter. Allora, guarda, io ti dico, per la mia modestissima esperienza personale, un cambio di paradigma così netto me lo ricordo quando è arrivata la PlayStation 3 come periodo. Con la 4 no, perché bene o male ci trovavamo in una fase in cui i formati video erano un po' più consolidati. Con PlayStation 5 e con la controparte Sony, con la controparte Microsoft, Xbox Sex, la chiamiamo così per fare prima, ci siamo trovati a vedere arrivare sul mercato a cavallo anche della nascita delle evoluzioni dei formati, soprattutto dei display, no? Quindi con l'8K, l'HDMI 2.1 e tante belle cose che non sono necessarie per godere delle nuove console, ma fanno parte di un'esperienza complessiva che, quanto più tu la vuoi rendere gratificante, tanto più ti dovrai avvicinare a tutte queste tecnologie accessorie. Io mi sono posto il problema nel breve periodo di tempo in cui pensavo e speravo di comprare la PlayStation 5 al lancio. Poi devo dire che mi sono, al di là del fatto che non l'avrei trovata come quasi tutte le persone che ci hanno provato al day one, però prima ancora ho desistito perché mi sono fatto un ordine di idee mentale di tutti gli accessori che avrei dovuto comprare, o perlomeno delle cifre che avrei dovuto investire oltre alla console vera e propria, per giocarci in maniera, non dico al top, perché per arrivare al top credo che dovremo aspettare almeno un annetto e dopo cerchiamo di capire insieme perché, però per avere un'esperienza abbastanza gratificante avrei dovuto quantomeno cambiare la TV, visto che io sono ancora legato a un banalissimo Full HD col quale mi trovo più che bene fino ad oggi. Però è chiaro che se ti fai una PlayStation 5 o una nuova Xbox o una nuova scheda grafica di ultima generazione, è chiaro che non è un peccato poi limitarsi a quel collo di bottiglia dato da un monitor ormai di vecchia generazione. Il Full HD è uno standard ormai dei primi anni 2000 come livello e come prestazione, un termine un po' improprio. Quindi mi sono un attimo fermato lì a pensare, a cercare di capire, e ho visto che per godere comunque abbastanza bene della nuova generazione di console l'investimento non è banale. Quindi intanto ti lascio questa premessa qui. Beh, quindi tu dici il costo delle console, più il costo della TV, 3,99 4,99, no, a secondo della scelta, sì, che uno fa, più meno, però diciamo, Allora, perché qui poi si tratta di scegliere un attimo un po' i livelli, no? Infatti su questo poi andiamo a ragionare. Se uno volesse godere appieno della tecnologia che ha acquistato, dice ok, io l'ho acquistata quella tecnologia, costa X, per godere appieno di quella tecnologia devo avere un telefonatore di ultima generazione, 4K HDR, diciamo così, con una frequenza di una scansione, insomma, più veloce, insomma, rispetto ai 60 Hz, no? Magari non so se arrivano a 120 Hz adesso queste nuove console, ma adesso non mi sono ben informato. E poi, anche volendo, anche un impiantino audio, insomma, decente per sentire il nuovo chip 3D della Sony PlayStation, di cui parleremo prima o poi, presto, insomma, anche con Carlo Burigano in una puntata specifica. Ah, su questo non ti so dire, non credo che ci siano ancora impianti surround compatibili col Tempest Engine in particolare. Forse più facilmente con il Dolby Atmos che supporta. No, ci sono le cuffie, chiaramente, di Sony. Ci sono le cuffie, a me l'audio in cuffia non piace quando sto se non quando faccio i podcast, lì c'è un senso, ma per il resto a me non piace molto. Il problema è, parleremo anche di quello, che nemmeno il mio impianto 5.1 di casa è facilmente riciclabile oggi, perché lo standard a cui io personalmente ero abituato, che è l'ottico SPDIF, che non è uno standard recente ma che ha sempre fatto bene il suo lavoro, è stato ormai completamente abbandonato dalle nuove console, che fanno tutto direttamente con la portante HDMI. Giustamente l'HDMI 2.1, che è retrocompatibile 2.0, si può permettere di portarsi appresso tutta la banda passante che vuole, quindi non c'è bisogno di separare il flusso audio. Però se il tuo impianto 5.1, come nel mio caso, non ha l'ingresso HDMI, ti devi inventare degli escamotage, oppure devi cambiare anche quello. Ok, allora iniziamo a fare un po' un giro di opinione, perché poi invece, se uno vuole partire ai minimi termini, che poi io mi ricordo un po' tipo quando compri il gioco per PC, no? Ti dice questa è la configurazione consigliata e questa è la configurazione minima, cioè nel senso che tu in quelle condizioni ci puoi giocare al gioco, poi fa schifo, è un altro, certo, discorso, ma però tu ci vuoi, faccia schifo, però vale la pena spendere per la nuova console se poi la gestisci come se fosse ancora, ecco, una PS4. Ecco, sentiamo anche un po' l'opinione di tutti, perché io posso rinunciare al 4K, però no, rinuncio comunque all'HDR, rinuncio a tutta una serie di cose, però volendo il ray tracing per esempio lo vedo uguale, cioè nel senso fondamentalmente, no? Quindi vediamo un attimo di capire, partiamo da Alex. Allora, io sono abbastanza convinto che oggi sia per il film, cioè per il cinema e le opere cinematografiche, sia per il gaming, meno per il game perché sono meno un giocatore, è molto meglio avere un fichissimo full HD con una vagonata di respiro in più e magari di effetti in più rispetto a un sufficiente 4K, che veramente sempre di più è diventato negli ultimi anni una sorta di mantra dal punto di vista del marketing. 4K, quando poi essenzialmente il passaggio non è così epocale come il passaggio dal 720p al full HD per certi versi. Ovvio che adesso un sacco di gente che ci ascolta da casa ci dirà no, ma stai dicendo un sacco di stronzate, eccetera eccetera eccetera. La realtà è che 4K va ad affinare un po' una sorta di glassatura di una torta, però tendenzialmente se c'è del buono sotto, anche una risoluzione più bassa funziona. Anzi, ripeto, questo vale sia per i giochi che per il cinema, di questo sono assolutamente sicuro. L'HDR, cioè la possibilità di veicolare molti più colori e di conseguenza molti più livelli e dare uno spettro molto più ampio alle informazioni cromatiche e di luminosità, scusate, ho passato una giornata a fare conference call, è molto più impattante sia dal punto di vista razionale sia dal punto di vista completamente emotivo. Quindi tu dici che esistono televisori full HD con l'opportunità di avere magari i vari livelli di HDR, perché visto che poi pure... No, allora nessuno oggi farebbe mai un televisore full, appunto, HD con HDR, perché non avrebbe assolutamente senso, perché più che altro non avrebbe senso dal punto di vista del marketing, e anche perché ormai la tecnologia per fare i full HD è standardizzata, non si mettono a inventarsi degli impianti nuovi. Però, ripeto, è più impattante dal punto di vista emotivo, per certi versi, l'HDR, naturalmente. ovvio che, ripeto, il passaggio dal Full HD al 4K è un po' come, quasi come il passaggio tra schermi normali e schermi HDPI, che sono i Retina sui telefoni e sono la doppia risoluzione per Windows e Android. Però, ripeto, secondo me, dal mio punto di vista, avrebbe molto più senso, se sei uno sviluppatore e non pensi soltanto al marketing, di magari di lavorare mettendo molti più poligoni nel personaggio principale, molti più effetti, eccetera, eccetera, eccetera, renderlo più fluido, cioè magari un 30 fotogrammi fisso o un 60 fotogrammi fisso, piuttosto che dire oh, faccio un 4K e poi dopo in 4K vado a 15 fotogrammi al secondo, per dire. No, vabbè, questo poi è un altro tema di cui parleremo la prossima puntata anche, però... cioè, quindi tu praticamente dici meglio l'HDR che il 4K di per sé. Il problema è che per avere l'HDR comunque devi avere il 4K, cioè oggi sì, ovviamente sì. Questa è un po'... Quindi, però nel senso tutti spingono per una cosa, in realtà l'altra è molto più rilevante, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo, e questo l'hanno abbastanza dimostrato. Poi quando passa al mio segmento ti racconto. Sì, anche okay, meglio. Certo. E Carlo, invece tu che come la vedi questa questione, insomma, legata al comprare una nuova console e avere poi i device giusti per poterla sfruttare al meglio? Ma è una cosa abbastanza semplice, nel senso che confermo sicuramente quello che ha detto Walter, Alex, perché è vero, okay. L'HDR è un'innovazione sicuramente molto maggiore rispetto alla risoluzione, può essere spiegata in maniera anche molto semplice, perché l'aumento della risoluzione è un aumento iperbolico, e quindi adesso, se aumentiamo la risoluzione, la differenza nei termini di visione è sicuramente minore rispetto all'aumento quando eravamo all'inizio dell'iperbole. Nintendo, se tu passavi dal PAL al 720 e al 1080 a occhio nudo vedevi la differenza su qualsiasi monitor e qualsiasi dimensione. Adesso che stiamo passando dal 1080p, che è il Full HD, al 2K, 4K e 8K, tra il Full HD e già il 4K vedi la differenza solo se hai dei televisori di pollici generosi. Tra 4K e 8K devi praticamente avere un 120 pollici minimo per vedere la differenza a un metro di distanza. Sì, vabbè, infatti agli 8K poi ci arriviamo dopo al discorso degli 8K. Sì, però... ma in generale comunque anche tra il 4K e un Full HD, se ti poni a 2 metri dal monitor, nessun occhio umano riesce a distinguerlo. Beh, siamo su un 25-27 pollici, diciamo, questo... Però io faccio 27 poco... pollici se ti trovi a 50 centimetri dal monitor. Cioè, nel senso, io faccio poco testo, però devo dire che la differenza tra HD, fra Full HD e 4K, la vedo solo su determinati dispositivi, su determinati pannelli, non lo vedo su tutti. Quando vedo scritto 4K, vado a vedere, cioè la differenza è... soprattutto dalla distanza e dall'ampiezza del monitor, essenzialmente. Che poi è un po'... Non so poi dopo... La grandezza di pixel. Con Alex magari dopo ne parliamo nel suo segmento, perché non so se esistono, così come esisteva con l'HD, no? Dicevano televisori HD, poi in realtà erano 720 invece 1080, o se col 4K esistono delle gobbale simili, insomma, nel senso delle cose tipo... Vabbè, ma io ovvio... Ti sto escludendo le truffe, che tu stai parlando di truffe. No, vabbè, le truffe, vabbè, però comunque sono anche tecnicismi, cioè di 4K, anche quando tu fai l'editing video, per esempio apri un progetto, a volte apri un progetto che è più sul 2K che sul 4K, però viene definito come 4K. Quella è una questione di qualità dell'immagine o della ripresa, come diceva prima giustamente Alex, è meglio e più bello un Full HD fatto bene che un 4K schifo, certo. Quello è logico, stai parlando di qualità del ripreso o del generato. Io sto parlando a livello proprio tecnico, quindi uno schermo con dei punti spenti e punti accesi, ok? Quindi proprio una cosa, una griglia, se tu questa griglia la fai su un 1080 e la fai su un 4K e ti metti a 1,5 metri, 2 metri dal TV, se non hai più di un 60 pollici tu non la vedi la differenza, se ti metti a 2 metri non la vedi fino a un 100 pollici, 120 pollici. Così, ma è per un limite dell'occhio umano, non ci sono alternative, cioè non riesci a vedere quella differenza. Prima la vedevi perché i pixel erano molto più grossi, come ho detto eravamo all'inizio dell'iperbole, quindi ogni raddoppio era molto visibile quello che tu vedevi. di differenza. Sentiamo invece chi c'ha il televisore 4K. Per finire, scusami, scusa, devo dire che per goderti una PS5 a 4K tu ti devi prendere un televisore che ci devi spendere un sacco di soldi, cioè non puoi pretendere di avere il tuo televisore normale di casa di adesso, cioè devi cambiare tutto l'impianto, devi spenderci un sacco di soldi e devi dotarti di un televisore grande che supporti 4K, eccetera, eccetera. Se no, la PS5 la usi come se fosse una PS4, fine, cioè non ci sono alternative. Era come collegare la PlayStation 3 alla presa SCART, la stessa cosa, capito? Poi questo è, cioè nel senso, voglio, dopo cerco di dare un attimo un'occhiata per cercare anche di dare una dimensione a questo quanti so questi un sacco di soldi, che in effetti è sicuramente come dici tu. Però vediamo un attimo chi invece magari il televisore 4K HDR se l'è comprato perché l'ha trovato in offerta, però non c'ha per esempio le console di nuova generazione. Cioè, nel senso, qual è la tua opinione, Marco, rispetto a sta questione? Cioè, nel senso, tu l'avresti comprato belli. No, aspetta, fammi finire la domanda. Tu l'avresti comprato? Sì. Tu l'avresti comprato? C'hai un po' di lag, mi sa. Tu l'avresti comprato il televisore nuovo, questo qua 4K che hai comprato, super gagliardo, roba del genere, in funzione del fatto che ti saresti comprato una console nuova, o te lo sei comprato perché non te ne può fregare di meno della console nuova, comunque c'era un'offerta, l'ho comprato? No, c'era un'offerta, mi serviva, l'ho comprato, non me ne poteva fregare di meno della PlayStation 5, anche perché proprio, cioè, non sono uno che se le compra, soprattutto se le compra appena uscite, quindi c'era questa offerta, cioè, sai che c'è, comunque mi serve, prezzo è buono, è un QLED 4K, me lo prendo, insomma, 55 pulli, me lo so preso. Ci ho attaccato la PS4, fa la sua porca figura, certo non è la PS5, non è la versione Pro, però sti cazzi, cioè. Posso insomma capire che ci siano delle grosse differenze se c'è una PS4, se c'è una PS5 attaccata a un televisore Full HD o HD, no, rispetto a un 4K sicuramente, però francamente a me interessa poco la questia. Tu per esempio che hai fatto, cioè hai potuto constatare varie differenze, che ormai tu hai visto, abbiamo visto tantissimi film insieme a casa mia sul mio televisore che è comunque 1080p, e poi ti sei comprato il nuovo televisore che tra l'altro è anche un buon prodotto. Cioè tu comunque questa differenza, al di là dell'HDR che poi vabbè, cioè nel senso poi dopo ci ritorniamo, comunque a livello di risoluzione, quando tu vedi contenuti in 4K vedi proprio, diciamo, ammazza ragazzo, ma è veramente cambiata la vita. No, cambiata la vita, penso che non cambi la vita nessuno, insomma, però vabbè, dai, cerca di capire il senso, scusa, vai. Si vede, insomma, comunque la differenza si vede anche parecchio. Poi ripeto, c'è la di fondo anche la qualità originale, come diceva chi, Alex o Carlo, dell'immagine, perché se è comunque fatta a cazzo di cane te la puoi giostrare in 4K quanto te pare, ma sempre schifo farà, insomma, quindi adesso se vedo contenuti in 4K, per dire, se vai su YouTube e ti metti a vedere contenuti in 4K dici mazza che figo, però se vai a vedere programmi normali o comunque diciamo la media, insomma tutta sta grande differenza non si vede, perché comunque quello che adesso è ancora in circolazione, diciamo, per l'utenza media è bassa qualità, insomma, rispetto ai 4K. Quindi diciamo che è ancora un po' superfluo. Poi per chi gioca ovviamente 4K sicuramente c'è la differenza, ci sono più frame, ci stanno più hertz, quello che cazzo mi pare, però poi alla fine la differenza la notano in pochi, secondo me. Vabbè, ma è entrato Marble Madness in chat, ha detto bravo Marco, così è entrato così giustamente, però poi c'è pure... No, perché era in concomitanza con quando Marco diceva che ha preso in offerta il televisore QLED eccetera, quindi era il bravo riferito al fatto che aveva comprato il nuovo televisore. Che poi è un bel televisore, cioè devo dire, insomma, alla fine comunque non è un OLED, però insomma è comunque un bel televisore, bei colori, insomma, rende. Che poi tra l'altro, Walter, torniamo a te e poi così rifacciamo il giro, c'è anche il discorso che ancora la qualità vera di queste nuove console, cioè dal fatto di dover correre a comprarsi un nuovo telefono, un nuovo televisore, è ancora molto controversa, perché in alcuni casi non si capisce se si tratta di upscaling, se si tratta di 4K puro, se si tratta di 4K bloccato a 30 frame, perché sennò poi in realtà poi alla fine non gliela fanno, quindi ancora è un po' tutto da vedere, insomma. Se tu dovessi fare oggi comunque l'investimento, proveresti comunque a giocartela un po' così con i mezzi che tu c'hai, o ti sentiresti veramente un po' l'esigenza di... cioè, che poi è il quesito che tu hai posto, insomma. Ma io credo di aver capito questo. Anzitutto, a cavallo dell'uscita di queste nuove console sono arrivati anche i primi modelli di televisori che supportano l'HDMI 2.1, che è totalmente retrocompatibile con HDMI 2.0, quindi non è una condizione necessaria per usufruire di un televisore. Non è necessario che il display che è collegato alla console sia HDMI 2.1. HDMI 2.1 porta con sé tutta una serie di novità che sono abbastanza interessanti, soprattutto in ambito videogaming, un po' meno importanti per il cinema e per altre cose, anche se fino a un certo punto. Però per chi vuole videogiocare in un certo modo, le caratteristiche tecniche del nuovo standard HDMI sono assolutamente interessanti. Il problema è che questo standard è stato stabilito intorno al 2017, se non vado errato, però siccome fino a pochi mesi fa non c'era di fatto nessun dispositivo in grado di sfruttare questo nuovo standard, perché neanche le nuove schede video di ultima generazione di Nvidia e di AMD erano ancora uscite, nessun produttore di televisori o di pannelli o comunque di monitor si era fino adesso precipitato a uscire sul mercato con nuovi modelli che supportassero questo standard. Quindi cosa è successo? Che i primi modelli con queste caratteristiche sono arrivati quasi in concomitanza con le console. Non è ben chiaro quali e fino a che punto delle funzioni HDMI 2.1 le console stiano al momento supportando, quali verranno abilitate successivamente via software e quali probabilmente non lo saranno proprio. Dall'altra parte, i primi televisori che implementano HDMI 2.1 non sempre lo fanno nel modo giusto. Ci sono stati addirittura un modello Sony che ha avuto grossi problemi col supporto di questo standard, perché a quanto pareva la CPU a disposizione sul TV non riusciva a gestire e a supportare il carico dei 48 GB per secondo della erano standard Z80. HDMI 2.1. Quindi hanno dovuto fare un downscaling forzato, perché altrimenti il televisore aveva problemi. E questo Sony, quindi sostanzialmente la stessa azienda che ha tirato fuori la console con il supporto da HDMI 2.1. Come loro, però, ovviamente anche altri produttori importanti sul mercato hanno fatto uscire i primi modelli. Ci sono televisori interessantissimi, però sono tutti, anzitutto, come hanno spiegato anche Alex e Carlo, pannelli con la diagonale generosissima, perché che senso ha avere un 4K, se non addirittura un 8K su una diagonale troppo ridotta? E quindi, per forza di cose, nuova tecnologia, un pannello abbondante e tutte queste belle cose, l'investimento da fare è molto più alto della console stessa. Io ho visto modelli di più che discreti, ma costare 1.000-1.200 euro. Se vai sotto questo investimento, stai comprando un prodotto di tecnologia precedente, stai comprando un prodotto compatibile fino ad HDMI 2.0, che, per carità, per l'80-90% delle persone va bene lo stesso, anche perché sicuramente oggi nessun gioco supporta ancora il massimo delle prestazioni che vedremo fra 1-2-3 anni. Però perché comprare oggi un prodotto già vecchio a questo punto? Aspettiamo un annetto, 6 mesi, quello che sarà, capiamo il mercato in che direzione va, facciamo scendere un po' i prezzi e ne riparliamo. Io ho fatto questa scelta qui. Ma guardi, il tuo telefono, dai col telefono stasera, col tuo televisore ce l'ha l'HDMI 2.1? Non so neanche se è l'1, quindi non gli ho chiesto ancora. Non so neanche se c'ha l'HDMI. Però c'è un bellissimo, c'è una bellissima presa SCART. Beh, è bello, ma esistono ancora le prese SCART sui televisori? No, non credo. Credo. Che ci sono le composite. Vabbè, allora. Se vuoi, ci sono gli adattatori su Amazon da HDMI a SCART. Beh, wow. Utile deve essere. Immagino che servono tantissimo. Vabbè, serve. Allora, facciamo un discorso, approfondiamo un po' questa questione poi dopo magari parleremo, appunto, come abbiamo detto anche con Carlo Burigana, affronteremo il discorso audio, quindi questa volta ci soffermiamo sul fattore video, che è quello forse più palese, più evidente, no? E abbiamo parlato un po' di quello che è un po' la tecnologia 4K in rapporto a quelli che sono le nuove console, ma anche per quanto riguarda il discorso dell'intrattenimento in generale, no? Che è ovviamente legato a quanto ci piace vedere magari un certo tipo di serie televisiva o addirittura un film, quindi godercelo magari nella miglior qualità possibile, come diciamo prima con l'HDR, il fatto che c'è questo range dinamico più espanso rispetto al vecchio digitale, insomma sicuramente i risultati sono veramente grandiosi. Escono queste nuove console, escono nuovi lettori, escono nuovi dispositivi e continuano a essere immessi nel mercato televisori 4K, ma già si incomincia a fare un discorso sugli 8K, no? Quindi cercando di espandere poi questa tecnologia che sembra che deve essere necessariamente frenetica e andare verso quella direzione. E anche in campo gaming si inizia tra l'altro a parlare degli 8K, no? Quando ancora, secondo me, penso le nuove console sono nativamente compatibili 8K, non so a che pro sei compatibili, vuol di tutto e vuol di niente, no? Certo, pure il videoproiettore da 70 euro è compatibile HD, poi dopo è 320x240, cioè nel senso il discorso è pure quello. Alex, com'è la situazione? E soprattutto, cioè, questa frenesia, insomma, è così indispensabile? Abbiamo già un po' risposto a questa cosa, però. Allora, io, come ben sai, parlo essenzialmente dal punto di vista della produzione video, per cui se ti va ti racconto due cose. È di quello, infatti, che lavoro. Esatto, è di quello che volevo. Allora, il problema è che quando pensiamo alla fruizione di un contenuto audiovisivo, dobbiamo pensare allo stesso come se passa attraverso una serie di tanti imbuti diversi. Il primo imbuto è quello della telecamera. Imbuti giustamente, è la telecamera che riprende la vita reale, e a questo punto c'è una serie di ottiche e alla fin fine un sensore, che è la prima cosa che converte l'analogico della vita, cioè i fotoni, in un segnale digitale. Questo sensore ha una sua risoluzione intrinseca, che è proprio stampata in hardware, nel senso, perché sono quei pixel lì, sono dei buchini su una superficie fotosensibile, per cui tendenzialmente ogni pixel può essere codificato unitariamente da questa sorta di pozzo in cui vanno a finire i fotoni. Per come sono strutturati questi sensori, tutti i sensori, nessuno escluso, di oggi, forse quelli del futuro saranno diversi, ma si sta spingendo in altre direzioni, ogni sensore può vedere un solo colore, o il rosso, o il verde, o il blu. Di conseguenza c'è una sorta di pattern in cui una griglia di 2x2 pixel, ci sono i due pixel diagonali che sono verdi, uno è rosso e l'altro blu. Questo significa, in maniera proprio matematica, che a voler fare le cose veramente di fino, uno potrebbe dire con sensore 4K, in realtà è un sensore 2K, perché alla fin fine ogni pixel o si becca un colore degli altri, per cui una griglia di 2x2 pixel va a finire a formare solo un singolo pixel. La realtà è che con dei crocchi matematici, un po' di interpolazione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, quello che si riesce a fare è che è un sensore 4K più o meno ha una risoluzione nativa di quello che viene percepito dalla gente di 3K, per cui già di suo una telecamera 4K non ha la definizione come se noi andassimo a scrivere effettivamente un'immagine pixel per pixel così. A valle di questo ci sono due possibilità di salvare questo flusso di dati: o fare un file RAW, cosa che viene fatta tendenzialmente al cinema, per cui l'immagine, tutti i bit del sensore vengono salvati una volta, in una botta sola, e di conseguenza abbiamo una dump fotogramma per fotogramma di quello che viene salvato, di quello che viene catturato, su cui si possono fare delle operazioni, oppure questo flusso viene salvato in un formato compresso che ancora una volta comprime le immagini. A valle di questo, dopo le elaborazioni che vengono fatte su video non compressi, c'è il salvataggio finale, nel senso, come questo film, questo video viene salvato su un file per poter essere poi trasmesso al cinema, trasmesso a casa col satellite, mandato su YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora una volta c'è una compressione che è volutamente a perdita di qualità. Anche quella del cinema, che utilizza un formato wavelet basato su JPEG 2000, e a perdita di qualità. Poca perdita di qualità, ma ce n'è abbastanza, ce n'è un po'. E alla fin fine abbiamo il nostro schermo con tutti i settaggi suoi che cercano di rendere l'immagine più o meno bella, che vanno a fare un altro tipo di filtraggio. Spesso e volentieri mi capita di vedere della gente che sui film utilizza lo smooth control, per cui ha 600 fotogrammi al secondo su un'opera che ne intendeva avere 24. Io tiro qualche porcone, chiudo gli occhi e mi metto a fare altro. Per cui tutta questa serie di filtri, di imbuti, di costruzioni che vengono fatte hanno il problema che alla fin fine vengono a degradare tantissimo l'immagine di partenza. Questo significa che nella migliore ipotesi possibile oggi, se giriamo un filmato in 4K con una telecamera buona, tendenzialmente il video che noi otterremo alla fine è un 3K, più o meno. Per cui leggermente un po' morbido, si potrebbe dire. Cosa si fa tendenzialmente? L'ho visto a casa dei miei suoceri che hanno appena comprato una televisione 4K su segnali Sky. Sia Sky che il televisore dicono: sei in 4K, sai che c'è, aumento il contrasto. Per cui vedi queste immagini assolutamente contrastate, con un contrasto tale, neanche contrastate, con la sharpen aumentata in maniera artificiale, per cui fondamentalmente vedi sì delle immagini incise, però incise sulla retina, nel senso che ti fanno male perché non sono naturali, perché devono in qualche modo farti vedere che il 4K si vede meglio. Poi che cos'è il meglio è un'altra questione, e di conseguenza tutti questi passaggi fanno sì che alla fin fine un buon Full HD, magari preso non da ripresa da avere ma fatto, generato al computer, come potrebbe essere un film della Pixar per dirti, riesce a essere molto più gradevole e inciso e bello e percettibilmente nitido per certi versi della partita di calcio in 4K, che viene compressa in tempo reale con un codec ottimizzato per essere a bassa latenza, trasmesso col segnale di Sky o ancora meglio sul digitale terrestre o ancora meglio con DAZN, che ha una serie di altri strumenti di codifica a basso impatto per essere vista. Capisci che la partita in 4K si vede 10 volte peggio rispetto al film della Pixar che è in Full HD. Infatti io la guardo in HD, in Full HD la partita su DAZN. Io c'ho una domanda però, Alex, proprio su questa questione, perché poi tu dici comunque questi che fanno streaming via, tra l'altro, satellite, diciamo così, quindi cose che non passano via cavo, ovviamente devono comprimere moltissimo l'informazione. Allora la domanda che ti faccio, la faccio a te, poi la faccio pure, però comunque sappi che il satellite ha molta più banda del cavo, sì, esatto. Ma molta. Ah, ok, molta. Bene, non lo sapevo. Ma una vagonata in più, bene bene, questo è buono a sapersi. Però passano 50.000 segnali per satellite. Vabbè, comunque dai. Ma non c'è abbastanza banda su satellite, ma abbastanza tanta. Comunque il discorso è che questi contenuti come Sky e via dicendo, per praticità, per velocità, comunque vengono molto compressi, no? Allora io ritorno un attimo al discorso della PlayStation 4, così poi sentiamo il tuo parere e anche quello degli altri, perché poi ritorno anche, mi riaggancio un po' anche al discorso di Walter, no? Quanto questi nuove console, secondo te, al di là che magari non abbiamo approfondito il discorso tecnico, riescono in 400 euro ad avere un segnale puro, potente, veloce e super definito, tanto quanto magari una scheda grafica professionale o non professionale, magari per gaming, che costa... solo di suo costa 200 euro di più rispetto a questo tipo di discorso, considerando che poi queste console in teoria all'interno del mercato dovranno durare almeno, non dico i 7 anni canonici, ma almeno 3-4 anni, insomma. Qual è la tua... Le console vengono vendute sotto costo, per cui già lì ci stanno un po' di costi, e poi vengono fatte a una sorta di investimento. Metti caso che tu sei AMD che fa la parte grafica di queste console, ti dicono: facci una vagonata di chip per questa console qui, perché magari all'inizio un po' ci perdi anche tu, però sono sicuro che te ne prendo 20, 30, 40 milioni di questi chip, alla fin fine, nel senso, sei a posto per 4 anni, per cui alla fine vengono tutti un pochettino sotto costo nell'ottica di stare sulle quantità. In più considera che se tu produci 1 milione di schede grafiche hai un costo, se tu produci 40 milioni di schede grafiche vabbè, ah, certo, sì, riescono ad abbattere. Per cui sulla questione dei soldi è assolutamente un po' come parlare del sesso degli angeli qui. Beh, però voglio dire, è realistico secondo te che queste console comunque riescano a avere veramente sto flusso di dati visivi, insomma, di questo livello? Ma stiamo parlando comunque di oggetti in cui la componente artistica e la componente tecnica si fondono. C'è un gioco che mi piace, di cui mi piace parlare spesso, che è The Last of Us, che sulla PlayStation, certo, sulla PS4 Pro sembra molto più bello dei giochi che sono usciti per la PS5. Sì, per vero, cui lì ci vuole anche un po' il manico dello sviluppatore. Ah, beh, sì, certo, hai ragione. Quello che ci hanno fatto vedere i signori di Unreal e che il buon Gusella ha confermato essere è vero, non è un filmato, ma l'ho visto dal vero con i miei occhi di bambino, e cazzo, cioè, allora secondo me i limiti vengono spostati da un'altra parte con quello che si riesce a fare adesso. Certo. Walter, infatti, secondo me tutti dicono il passaggio tra la PS4 e la PS5 sarà meno marcato dal punto di vista dello spettatore normale, perché non si accorgerà di tante cose, però chi ci capisce vede figata a questo punto. Alla fin fine un sacco di gente c'ha la console per giocare, non per vedere un poligono in più, un poligono in meno. Lo vedo il mio cognato, che lo vedo giocare a FIFA. FIFA è un gioco abnorme, poi uno può piacere o non piacere, però ogni volta che guardo tutto quello che ci hanno ficcato dentro dico: minchia, ma qui c'è proprio l'enciclopedia del calcio di oggi, con 200.000 cose diverse, un miliardo di musiche, grafiche che continuano ad aggiornarsi, la telecronaca che ogni tanto devo fermarmi e dici: cazzo, ma questa roba qui è sintetica, non è generata al momento, sì, con la voce registrata di Pardo, ma sembra vero. Se non ti fermi, sì, a per la quantità di linee doppiate, certo, è vero. No, ma per cui ripeto, è lì che si concentra la cosa. Alla fin fine, per tutti, siamo noi che ci facciamo le pippe sui megapixel, sui teraflops. La gente normale vuole giocare. È vero. No, bravo. Infatti, salto un attimo Walter e poi ritorno subito da lui e vado da Carlo Sant'Agostino, perché in effetti sta cosa della grafica, Carlo, è sempre esistita. Cioè, wow, c'è la grafica. Poi però alla fine, cioè, chi vuole giocare il gioco che è bello da giocare, alla fine sì, la grafica è importante, ma anche sti cazzi a volte, sì, no? Ma assolutamente sti cazzi, cioè in realtà la grafica e la potenza della macchina, la velocità, i megapixel, tutto quello che vogliamo, la tecnica conta fino a un certo punto, anzi conta per chi, come ha giustamente detto Alex, per chi ne vede le potenzialità in termini di sviluppo, quindi il programmatore, il progettista di giochi, eccetera, che capisce che grazie a queste cose può ottenere dei nuovi risultati, delle nuove cose, dei nuovi risultati eclatanti. Ma conta solo ed esclusivamente in quest'ottica, non nell'ottica del giocatore, che l'ottica del giocatore è giustamente giocare e divertirsi, se no non si spiegherebbero decine di migliaia di casi di successo nella storia del videogioco, nella storia dell'informatica, dove macchine che non erano assolutamente confrontabili con altre contemporanee, che magari erano più potenti di qua, più potenti di là, eppure vendevano di meno o non riuscivano ad avere successo, mentre altre macchine vendevano tantissimo e avevano un sacco di richieste, perché alla fine quello che vende è l'applicazione, è la killer app, come dico sempre io, la killer application. Cioè, tu quando hai il gioco bello, il gioco fatto bene, e il gioco bello fatto bene non vuol dire che per forza deve girare sulla macchina la più potente di tutte, la più bella di tutte, deve girare su una macchina che ti permette di fare le cose di cui il progettista del gioco si è ripromesso di ottenere. E alla fine quello che conta poi è l'insieme del gioco, la giocabilità, quello che è la giocabilità del gioco, fine, punto e basta, questo è. Cioè, se un gioco è bello indipendentemente dalla macchina sulla quale sta girando, è bello perché è giocabile, perché è fatto bene, perché ha una bella storia, perché ha una longevità, perché ha tutta quella serie di cose che a noi piacciono quando giochiamo, ovviamente. Beh, che poi detto questo, il livello della grafica è importante, perché è ovvio che se lo stesso gioco lo vedo su due macchine uno con la grafica brutta e l'altro con la grafica bella, è ovvio che a quel punto io vado verso il pubblico, verso la grafica bella, e questo è innegabile. Eh sì, per... ma questo è secondario rispetto al gioco stesso. Sì, no, no, questo è vero, però è vero che questo concetto che ha espresso Alex e che ha espresso te, che sicuramente esprimerà anche Marco, adesso gli passo la parola, è così, però il discorso è che è vero che a un certo punto poi però la tecnica comunque sovrasta anche questo tipo di discorso, perché io ho continuato a giocare su Amiga 500, per parlare della mia generazione, per tantissimo tempo, perché comunque mi divertivo, i giochi erano divertenti, però poi alla fine siamo dovuti soccombere di fronte ai 256 certo. colori della VGA, o quando poi sono uscite le prime schede. Ma non era tanto i 256 colori, è stata la potenza di calcolo che certo, ha fatto anche, soccombere, sì, beh, in certo, realtà. Sì. Cioè, quando si è passati al 3D, allora a quel punto sì, lì effettivamente, perché lì hai aggiunto un paradigma nuovo che dava la possibilità a chi creava videogiochi di esprimere dei giochi con delle caratteristiche che erano impossibili da ottenere sulle macchine che non avevano quella potenza di calcolo, e allora a quel punto ci si è dovuti per forza, abbiamo dovuto per forza evolvere in quella direzione, ecco. Okay? Ed è sempre stato così, cioè il paradigma non è l'aumentare i colori da 128, da 32 a 200, la palette da 4096 a 256.000, non è quello che fa la differenza. La differenza è che uno non riesce a fare il 3D e l'altro ce la fa a fare il 3D. Sì, sì, oddio, okay? Oddio. Vabbè, non entriamo in questo, perché poi dopo espanderemo. Marco e Walter, su questa questione del grafica-gioco-gioco-grafica. Vabbè, poi, insomma... Vai, Marco. Io penso che ne abbiamo parlato decine e decine di volte. E riparlane la decina volte in più. Beh, diciamo che la grafica ovviamente non è tutto, diciamo, la cosa ovviamente che salta di più all'occhio, quindi quando tu vuoi far vedere una nuova console, qualche cosa di bello, che cosa fai vedere? Fai vedere la grafica, non è che puoi far vedere che magari c'ha un 3D meglio degli altri o delle cose fisiche migliori degli altri, perché le vedono praticamente, ci notano una piccola parte degli interessati, quindi la cosa che devono far vedere, che si può vedere subito, è la grafica, quindi quanto è bella la grafica, quanto è più potente questa console, perché guarda il gioco, lo stesso gioco visto in super 4K, che cazzo imperi, che ne so, guarda quanto è bello, comprati la console. Quindi sicuramente quello è un modo per far vedere quanti attributi c'ha la cosa che stai vendendo, però ovviamente non è quello che può fare la differenza in un gioco. Diciamo che, tanto per farci la classica domanda, un brutto gioco viene salvato da una bellissima grafica? Come un brutto film viene salvato dai bellissimi effetti speciali? No. O cioè... dalla gnocca? No. No. Però per dire, un bel gioco ma con una brutta grafica viene così penalizzato? Brutta grafica, che poi non è necessariamente una grafica fatta male, ma una grafica non aggiornata, nuova, certo. Super aggiornata. Certo. Ci sono tanti bei giochi che non i 4K lo sognano proprio, perché non ne hanno bisogno. Io infatti continuo sempre a citare la prima stagione di The Walking Dead, che per me, cioè, al di là di tutto, cioè, nel senso, lì la storia alla fine ha superato qualsiasi altra cosa. Walter. Ma guarda, inizio con una dichiarazione di un paio di settimane fa di Strauss Zelnick, che è il CEO di Take-Two, quindi una delle varie software house che sviluppano per esempio giochi sportivi come NBA 2K eccetera, che sostiene che con questa e poi con la, penso lui ipotizzi, la successiva generazione di console, entro 10 anni arriveremo al fotorealismo nei giochi. E io mi sono detto, quando ho letto questa intervista, Walter, quando arriveremo al fotorealismo? Speriamo presto, perché qua... Ma comunque il fotorealismo in 10 anni, cioè, secondo me ci siamo molto più vicini, Ma sì, può anche darsi, però la domanda che mi sono posto è: ma mi interessa? In realtà mi sono risposto di no, perché finché questo tipo di caratteristiche mi servono a mostrare i muscoli e quindi a fare marketing, va tutto bene. Ma poi a me quello che interessa quando devo giocare non è l'estrema fedeltà grafica, anzi, per assurdo, mi piace che rimanga una linea di demarcazione tra quello che è il mondo del gioco, il mondo fantastico, che in parte deve essere anche elaborato dalla mia fantasia, rispetto a quella che è la realtà. Cioè, non voglio troppa realtà nel videogioco, a meno che non ci siano contesti specifici che lo possano rendere interessante e funzionale, allora per carità. Però in linea di massima voglio rimanere in un mondo un pochino surreale quando mi immergo in un gioco. E poi ti faccio l'esempio più banale di tutti, probabilmente dopo in qualche modo accenneremo il tema, anche se poi ne parleremo in altre puntate. Io sto giocando a un gioco che è la fiera del bug e la fiera della critica in questo momento, che è ovviamente Cyberpunk, però chi se ne frega, mi sto divertendo e l'importante è quello. E perché, poi, e perché non hai giocato Assassin's Creed, capito? Perché sennò sarebbe anche peggio, insomma. No, comunque sì, è quello che dici è chiaro. Io quando faccio riferimento al fotorealismo, e vengo ad Alex, che secondo me mi può capire su questo discorso, non è tanto sul realismo in senso assoluto, ma sul fotorealismo, cioè sull'uso della luce in senso artistico. E allora a quel punto è un'altra cosa ancora, ok, per carità, però l'abbiamo vista anche già in tante opere come The Last of Us e in altre ancora. Siamo vicinissimi, non servono 10 anni in quel caso. Beh, io per esempio ci sono i giochi della Media Molecular, là come si chiamano? Media Molecule, che fanno un uso della luce che è una cosa eccellente, meravigliosa. Alex, tu che dici? Cioè, non dei giochi della Media Molecule che tu probabilmente non conosci, però... No, li conosco. Li conosco. e vai, dimmi che cosa pensi in merito, proprio perché poi qui stiamo tanto parlando del ray tracing, dell'iperrealismo, però poi alla fine il succo l'hai tirato fuori te. Cioè, alla fine alla gente gli piace giocare e avere una percezione anche artistica, no, di quello che sta vedendo. Allora, nel 1999 il PR di Sony ha detto: con la PlayStation 2 che sta per arrivare, non capirete se la grafica è gioco oppure il film di Guerre Stellari che stava uscendo in quel giorno. Vabbè, l'hanno detto così, praticamente avrebbe fatto un bellissimo fatto. Complimento alla infatti io l'avrei querelati a quel punto. Esatto, cioè, nel senso, questa roba qui hanno detto, nel senso, in tempo reale vedrete la grafica di Guerre Stellari di Star Wars episodio 1, e tutti i bambaccioni: oh, figa, veramente bello, cioè, e tutti si aspettavano questa cosa qua. Per cui sul fotorealismo, cioè, ogni volta lo diciamo. Io mi ricordo, altro aneddoto e poi vado nel vivo, la prima volta che ho visto il trailer di Final Fantasy il film, l'ho visto così distrattamente, non avevo capito che era un film d'animazione. Se lo guardo adesso con l'occhio sinistro, intanto che faccio una scoreggia e penso ad altro, capisco perfettamente. Sì, no? Beh, certo, ovviamente sì. Il nostro occhio si è anche abituato a certe cose e le nota sempre di più. Quello che ci sembrava realistico 10 anni fa, adesso ci sembra un gioco da bambini. Vero. Infatti la Real Engine oggi lo fa con occhio chiuso, quel lavoro lì. Esatto, per cui ripeto, quando questi proclami sono quelli, i soliti proclami: fra 10 anni raggiungeremo qui, raggiungeremo lì, nel 2000 avremo le automobili volanti, e poi vabbè, abbiamo visto come siamo messi, lasciano il tempo che trovano. Secondo me bisogna saper fare di necessità virtù di certe volte. Tu mi parli di Media Molecule, loro sono bravissimi, dicono: non andiamo sul fotorealismo vero e proprio, ma utilizziamo gli strumenti che abbiamo ci costruiamo sopra qualcosa. Nessuno va a pensare che il film che è appena uscito della Pixar sia realistico. No, cioè, sono personaggi deformati, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno pensa che sia fotorealistico anche, però nell'ottica del film d'animazione è una cosa spettacolare, perché sfruttano anche un sacco di trick tecnici che sono anche molto tosti per certi versi. Infatti, oggi una roba del genere non si può fare in tempo reale, punto e basta. Secondo me, lì bisogna sapere anche dosare le cose. Tu dici: guardo Last of Us e mi sembra reale. No, a me sembra un bellissimo cartone animato, fichissimo, spettacolare, ma mi sembra comunque un film d'animazione, perché non è reale sta cosa qui, punto e basta. Non è che stiamo qui a inventarci la sega, la pippo sega. Non lo è, e consci di questa cosa qui, ne prendiamo atto e facciamo una cosa che non è reale, non è realistica. Il fotorealismo, poi dici, se io fotografo un uovo sul mio balcone usando come sfondo il cielo blu, magari riesco a ricostruirlo in tempo reale senza che la gente si accorga che questo singolo uovo illuminato e fotografato con uno sfondo uniforme possa sembrare finto. Poi se devo andare a ricreare, che ne so, la scena di Scarface dove c'è Al Pacino che si strapippa la montagna di coca davanti sulla sua scrivania, magari le cose vengono fatte in maniera leggermente diversa. Bisogna anche capire dove vogliamo andare. Ci sono cose più semplici e cose più difficili. Come hai detto tu, il bello è, ok, abbiamo questo imbutone gigante di tecnologia, anche di nostra incapacità di rendere le cose troppo reali, facciamo una cosa irreale, ma facciamo la figa. Eh sì, io penso che sia un po' questo il discorso. Io vorrei che tu, Alex, mi spiegassi un attimo, cioè nel senso, se veramente oggi c'è un'esigenza reale di andare verso l'8K pure dal punto di vista del televisore, chi se lo può permettere secondo te? E poi passerei all'argomento finale, perché l'argomento finale è secondo me forse quello più importante, perché è l'argomento che permette a Marco Gualdi di dire: a me non mi vale spendere 600 euro per una scheda grafica, a Walter Sbano non gli vale spendere 2000 euro per un computer performante, però voglio giocare lo stesso, no? Perché poi alla fine, insomma, nel senso, è quel passatempo che ogni tanto, no, ci fa sempre piacere. Quindi prima Alex e poi passiamo a Carlo. Allora, l'8K è impercettibile, nel senso, ha senso se tu costruisci un monitor a parete in cui non fruisci del contenuto tutto insieme, ma magari ti avvicini e vedi una singola parte di questo monitor. Cioè l'8K è impossibile per l'occhio umano vederlo, appunto, non ci sono palle. O ti avvicini veramente tanto tanto tanto, al punto tanto che tale che non vedi più i confini del monitor, però a questo punto non ha assolutamente senso, e poi per gente anziana come me mettere a fuoco cose molto vicine è un po' dura, altrimenti non ti accorgi assolutamente, non ha senso. Dal punto di vista delle riprese invece può avere senso, se devi fare degli effetti speciali molto complessi, devi fare delle estrazioni di chiave molto complesse, hai bisogno di una iperdefinizione per fare pan and scan, va bene. Cioè nell'ottica di riprendere una partita di calcio con un'unica fototelecamera 8K che riprende tutto con un grand'angolo, tutto il campo, e poi muovo l'inquadratura a posteriori facendo pan and scan all'interno dell'inquadratura, sì, va benissimo, però non, la fruizione 8K secondo me è veramente una barzelletta, ma perché probabilmente la vedrebbero solo dei bambini fino ai 3 anni, perché mettono a fuoco robe a qualche centimetro, non ha assolutamente senso, né dal punto commerciale, né dal punto di vista commerciale. No, perché io vedo che Sony comunque pubblicizza sti cazzo televisori 8K dei prezzi poi tra l'altro veramente, cioè, no, boh, non capisco, cioè, ma anche allora, se avessi i soldi, cioè, nel senso, pure se fossi milionario. Hai un televisore 8K da 100 pollici, va bene, ok? Che ho pagato 50.000 euro, diciamoci la verità. Perché va bene, esatto. Però magari fare 10 anni costa, qualche anno costa. E ci sta, Lo usi come televisore, lo metti in orizzontale, diventa il tavolo, e magari quando vai a mangiare sushi con i vari pizzi, puoi ordinare, giocare su questo coso come se fosse un'unica grandissima console in cui vedi la cosa. Cioè, dal punto di vista fieristico, degli allestimenti, di un certo tipo di esperienza, ma sicuramente non per i contenuti audiovisivi, non ha assolutamente senso proprio. Ma neanche per il grandissimo cazzo di Orione. Al massimo, Alex, ci facciamo uno studio virtuale e facciamo tipo come fanno su Mandaloriano, praticamente. Cioè, ci facciamo gli scenari dietro. Insomma. Sì, ma non ha senso, perché lì a questo punto i pixel sono anche più grossi, perché stanno dietro, sono sfocati. Però scusa, vuoi mettere il soggiorno di casa Stagecraft? Cioè, che non sappiamo cosa sia. Spacchi. Però. Sì, sì, ma guarda, se c'hai i soldi è anche abbastanza facile stupire gli amici. Beh, quando c'hai i soldi poi... No, non so cosa sia lo Stagecraft, però vabbè... È la tecnologia che hanno usato per il Mandaloriano. Ah, ok, ok. Cioè, dove siamo, eh? Allora fai il ponte ologrammi. Va bene, allora andiamo invece al punto di Carlo, perché Carlo, giustamente, nelle varie domande, e qui poi dopo rientra in ballo pure Walter, perché l'ha accennato prima, ma anche Marco, perché comunque... Vedremo, insomma, secondo me sperimentazioni oramai sono finite, è arrivato il tempo del gaming duro e puro anche con questo tipo di tecnologie. E giustamente Carlo si è posto la questione dicendo: oh, vabbè, compriamo le console qua e là, destra e sinistra, però il futuro del gaming, anche se è una cosa di cui abbiamo già discusso tante volte e io continuo ad avere un po' una mia idea di mezzo, diciamo così, è il futuro è il cloud gaming, ma prima o poi lo sarà sicuramente, ma quando, Carlo? Entro 10 anni. Se lo sapessi quando sarei già miliardario, potrei già comprare le azioni di chi prevedo vincerà. No, non si può sapere ovviamente quando, la mia è semplicemente una previsione fatta sull'osservazione, sul fatto che comunque il videogioco è un media di divertimento che dal punto di vista commerciale è usufruito allo stesso modo della musica e del cinema e che quindi va nella stessa direzione. La musica è diventata, diciamo, senza supporto fisico già 10 anni fa, il cinema è diventato senza supporto fisico negli ultimi 5 anni e il videogioco diventerà senza supporto fisico nei prossimi anni. Perché, diciamo perché che senza supporto fisico già oramai da un bel po' di tempo, volendo, però in un'altra formula, insomma, esatto. Anche senza supporto fisico dal punto di vista di player, ok? Di sistema che adesso nessuno più pensa a un lettore MP3. Chi cazzo ce l'ha il lettore MP3? Non ce l'ha più nessuno, perché ormai la musica la usufruiamo in maniera completamente cloud, dai device che abbiamo in casa, come Alexa. Guarda, Marco Gualdi ce l'ha il lettore MP3 ed è rosa. La musica ormai da anni è un abbonamento a qualcosa, fine. Il cinema adesso anche quello è un abbonamento a qualcosa, perché è l'abbonamento a Sky piuttosto che Netflix piuttosto che Amazon eccetera, e non c'è più prima avevamo il lettore DVD, no? Il lettore Blu-ray, e non ce l'abbiamo più, non c'abbiamo né il lettore DVD né il lettore Blu-ray né nient'altro, neanche il lettore apposito per leggere gli MPEG o quello che volevamo attaccato al TV, niente, non c'è più niente di quello ormai, è un servizio e lo usufruiamo su un qualsiasi device che abbiamo in casa. E il videogioco è destinato a seguire la stessa sorte, destinato da un punto di vista commerciale, perché ovviamente questo metodo di usufruire di un bene come il videogioco è talmente conveniente al produttore, al distributore, per tutta una serie di motivi, che nel momento in cui la tecnologia sarà in grado di farcelo, e ci arriverà perché ci stiamo arrivando, cioè sarà in grado di farcelo usufruire senza bisogno di un hardware apposito, sarà così, non ci sono santi, quindi questa è la direzione in cui stiamo andando e in cui andremo, a meno di qualche cambio di paradigma per il quale io non ho alcuna previsione come nessun altro, perché quello ovviamente il futuro è sempre un'incognita. Però se le cose stanno così e proseguono come anche sempre un'inculata come hanno proseguito nei prossimi anni, i videogiochi li pombreremo nelle piattaforme che ci saranno, che saranno varie come se lo sono quelle del cinema attualmente. Io adesso purtroppo, ma è così, purtroppo c'ho 4 abbonamenti, prima non ne avrei voluto neanche uno, adesso c'ho 4 abbonamenti per vedere le serie TV e per vedere i film. Ce l'abbiamo tutti, quattro abbonamenti purtroppo. Esatto. Anche se uno poi alla fine è annuale, costa poco, lo metti all'insieme di altri servizi, però insomma. Diciamo che nella diffusione c'è anche un risparmio, per carità, però siamo anche legati, cioè se io prima il mio DVD e il mio Blu-ray che compravo è mio e ce l'avrò sempre avuto mio, adesso se mi guardo un film che magari mi compro anche su una piattaforma, adesso lo vedo, quando me lo tolgono non lo vedo più. E questo ci sarà una puntata specifica di Ludico Forum su questo argomento qua, perché è abbastanza importante, abbastanza sentito anche come tipo di problema, perché si collega anche ad altri meccanismi che purtroppo, dei quali purtroppo oggi noi siamo vittime di questa situazione. Però torniamo invece al discorso del cloud gaming, che sicuramente anch'io sono estremamente convinto che è il futuro, ma anche per una questione proprio di praticità, di logica pratica, diciamo così. Sono stato scettico perché nelle mie prove che ho fatto nel passato c'erano delle incertezze da un certo punto di vista tecnico. È vero, infatti qui poi sentiamo sia Marco che Walter, in particolare Walter, che provando Stadia durante questo periodo con Cyberpunk 2077, però poi mi nascono anche delle domande tecniche. Io non ho trovato particolari differenze, lag o cose che alla fine mi impediscono di giocare. E devo dire che questa cosa mi ha molto sorpreso, perché faccio ancora fatica a comprendere quanto il feedback e la restituzione, diciamo, del quindi l'input e l'output di quello che io sto facendo sia così veramente in tempo reale. Mi domando se... Guarda, più diventi vecchio e meno te ne accorgi, tranquillo. No, ci vedrà proprio meglio con l'età. È vero che diciamo che cioè su Cyberpunk, a parte quando c'ho le sparatorie, diciamo alcuni meccanismi sono abbastanza guidati. Bisognerebbe provarlo con un action puro tipo Dark Souls, ad esempio, no? Però da quello che ho visto, insomma, bene o male, chi ne parla assolutamente bene, e faccio fatica a capire un po' come funzioni questa cosa. È vero che a volte sono degli artefatti, diciamo, dal punto di vista visivo, dovuti alla compressione, dovuti magari alla velocità di movimento, a tutta una serie di cose. In particolare ho visto GeForce Now, che insomma c'ha delle incertezze, diciamo, molto più gravi dal punto di vista grafico. Ecco, diciamo così. Però GeForce Now abilita il primo già adesso RTX, che su Stadia non c'è, quindi probabilmente c'è anche quello, è più oneroso il calcolo da quel punto di vista, e quindi serve anche più banda, non lo so. Sì, però si ferma al 1080p. Cioè, no, più senso, banda no, in realtà. Vabbè. Capito? Quindi, no. Cioè, nel senso. Comunque, vabbè. Oh, poi è chiaro che ognuno è riuscito a costruire i server che è riuscito a costruire, poi le cose miglioreranno col tempo. Ecco, diciamo, per la vostra esperienza, considerando il fatto che appunto oramai anche il videogioco deve andare verso Netflix da quel punto di vista, poi Netflix ha fatto anche delle sperimentazioni, è una cosa che ci interessa. Marco, partiamo da te, che sei quello un po' in questo momento che ha parlato di meno, poi Walter e poi Alex. Allora, nello specifico il cloud o Stadia? Il cloud in generale, perché poi purtroppo il problema del cloud oggi sono gli abbonamenti, cioè nel senso che sono un po' strani, cioè ancora, ci sono ancora meccanismi un po' ancora da rodare. Dire, sì, perché ognuno adesso cerca di buttare la sua, ma poi, come dice sempre Alex, è il porno quello che deciderà il modo migliore per i pagamenti. La formula migliore la deciderà sempre il porno, quello l'abbiamo, ce lo sappiamo. No, comunque, a parte questo, sì, penso che sarà più o meno il futuro, non so se sarà auspicabile o meno, perché tante cose andranno perse con la digitalizzazione anche dei videogiochi. Però sicuramente è una bella botta per chi magari vuole giocare a livello PC, cioè con una grafica PC, senza doversi per forza scannare, diciamo, tutto da un botto, ma si scanna piano piano, diciamo, durante l'anno, però non deve aggiornare, non deve avere a che fare con antivirus, tutto sta da avere comunque. Ma anche l'aggiornamento hardware, Marco, anche l'aggiornamento hardware è una cosa importante, cioè. Tutto sta ad avere diciamo, a disposizione la fatidica rete buona, perché se non hai la rete internet buona, la velocità buona, ti attacchi a K. E purtroppo è quella l'unica grossa pecca ad oggi che blocca tutta quanta la cosa. Se io avessi, per esempio, non dico un 100, ma almeno una 50 mega a casa mia, l'avrei provata probabilmente, però non avendo questa fortuna, questa gioia. Beh, dicono che il 5G ci salverà la vita, a parte farci venire il COVID, chiaramente. Esatto, no, di qualche cosa dobbiamo morire. Esatto, quando la copertura 5G sarà effettiva e quando gli operatori decideranno di passare a un modello di business che non è quello del plafond di giga limitati al mese, come stanno facendo con i primi abbonamenti, quindi tra 2-3 anni anche lì. Sì, vabbè, quando ci sarà il fotorealismo, ragazzi. Esatto. Quindi vabbè, c'è sempre tutto un condizionamento, però diciamo che comunque tendenzialmente io oggi, cioè io penso a una persona come Alex, è una grossa trasformazione, perché Sony, Microsoft, che già sta facendo, insomma, cominceranno proprio a vendere servizi. Sì, esatto, infatti secondo me oggi andare a vedere la console hardware, che è perdita tra l'altro, quindi vediamoci un po'. Io oggi andrei verso le console semplicemente per le loro esclusive, cioè io penso a un gioco Naughty Dog, cioè oggi mi scoccerebbe, no, non poter giocare il prossimo gioco Naughty Dog, e quello mi è l'unico motivo. Infatti sono le esclusive quelle che vincono, no? Però se io penso a una persona come Alex, cioè che non è un videogiocatore, cioè non lo è più da un sacco di tempo, però è una persona che comunque gli piace esplorare comunque i vari medium, no, cioè si trova di fronte al suo videoproiettore con un cazzillo qualsiasi con il quale lui si collega a Netflix, e magari tramite Netflix può giocare, che ne so, al The Last of Us parte 3, così senza che deve fare chissà che cosa, roba già, per curiosità magari ci si mette a giocare, giusto Alex? Così, del botto senza senso proprio, mi piace. non lo so, sai, se lo farei, perché quando vedo che l'impegno comunque è di un giocatore normale, ci mette quante ore ci metti a finire Last of Us? Beh, The Last of Us saranno una trentina di ore, penso, sì. Esatto, io ce ne metterei 300 perché sono anche rincoglionito. Chi ce l'ha 300 ore nella vita? Ah no, ma oramai i giochi sono facili, i giochi non sono più come una volta. Ma io sono veramente coglione. No, ma io dico anche come curiosità, non dico di fare il gioco per completarlo, no? Cioè, però tu metti ipotesi che il gioco, cioè ci fosse un grosso abbonamento Netflix. Aspetta. Simo, c'è il pacchetto X ti fa giocare con Y giochi, cioè, tra cui il gioco anche questo qui di Last of Us, che normalmente tu non giocheresti, perché chi è che ti metti a spendere 60 euro per comprarti un gioco che non finirai mai? Però, sai, col pacchetto c'è una cosa che ti interessa e c'entra anche questa qui, lo provi. Ma ancora meglio, Amazon Prime, perché qui adesso noi stiamo parlando del cloud gaming, quindi Stadia, Microsoft Box Live, là come si chiama, e via dicendo, però quindi sono cose specifiche. Quest'anno arriva anche l'una di Amazon, eh? Appunto, cioè nel senso, so cose specifiche nelle quali tu ti devi abbonare perché sei un gamer, ma metti l'ipotesi che questa formula dovesse entrare anche nei servizi più standard, diciamo così, come può essere un Netflix, può essere un Amazon, quello che cazzo non le pare, no? E a un certo punto io sto a casa, mi sono rompi i coglioni, sono Alex Raccuglia, non c'ho niente da fare, mia moglie arriva fra un'ora e mezza, sai che c'è, ma fammi provare, tanto non, che me, cioè, nel senso, non lo devo comprare, l'abbonamento lo pago uguale, cioè nel senso ci provo, no? Alla fine, secondo me, questa è un po' l'espansione anche del sistema. Quando il videogame, poi tra l'altro, finirà di uscirà da quel suo ghetto, cioè no, qui ci siamo solo noi giocatori, e lì c'è il cinema e le serie TV, no? Magari un giorno in cui ci sarà un po' un connubio da questo punto di vista. Non so, Alex, che dici? Sì e no, ripeto, io non è una cosa che mi riguarda, però alla fine credo che è lì che stiano andando tutti. Walter. Ah, diciamo, partendo da quest'ultimo punto, Amazon ti risponde direttamente, vabbè che Amazon è quella grandissima multinazionale che praticamente vuole fare tutto, vuole vendere tutto, quindi non poteva esimersi da farsi la sua piattaforma. Sì, tra l'altro so che c'è anche un engine grafico suo, ho scoperto recentemente che c'è il suo engine grafico Amazon. Sì, ma loro hanno investito trasversalmente in tantissime cose, avevano comprato anche Magento, che è una piattaforma di e-commerce, poi l'hanno rivenduta, insomma loro esplorano tutti quanti gli ambiti dove possono guadagnare. Altri magari vogliono rimanere giustamente verticali su un mondo solo, e poi ci sono quelli come Sony che sono ancora abbastanza fedeli al classico, quindi alla capacità di elaborazione nel salotto di casa più che in remoto, e poi se ci pensi Sony potrebbe invece avere una certa lungimiranza, visto e considerato che di fatto possiede anche Columbia Pictures, quindi potrebbero avere questa visione di convergenza di certi mondi, però evidentemente loro, che poi sono quelli che in ambito videoludico sono tra forse quelli che più di tutti ti tirano fuori le esclusive emozionanti, perché l'abbiamo detto mille volte, no? Sono quelli che, non puntando a un certo tipo di cloud gaming, forse diventeranno per i prossimi anni ancora un ago della bilancia non trascurabile. Però se non fosse per quello, se il mondo fosse fatto di giochi cross platform, io ti potrei dire già oggi, senza più i dubbi di qualche mese fa, che il cloud gaming non è domani, ma dal punto di vista tecnologico ormai è già oggi. Perché se riesci a superare il compromesso, che non dipende dalla piattaforma di gaming ovviamente, ma dipende da te, di avere una buona connessione a internet, posso dirti che non, se do un joypad a 10 persone che non sia riconoscibile, fai conto, gli do il joypad della PlayStation 4, li faccio giocare a Cyberpunk su Stadia, nessuno di loro capirà che sta giocando in cloud, perché non c'è assolutamente nessuno strumento per capirlo. No, no, è sì, chiaro, l'ho detto. Se ci sono problemi di network, per cui comincia a fare smoothing, comincia a fare tutta una serie di aberrazioni grafiche per compensare la mancanza di banda, allora sì, lì lo capisci, però appunto non è un problema da attribuire alla piattaforma di gaming, quelle effettivamente funzionano. Io stesso mi sono meravigliato già rispetto a quando avevo provato Destiny 2 quest'estate, e lo ripetiamo, l'hai già detto in parte tu, Cyberpunk sicuramente non è uno di quei giochi che da questo punto di vista può essere particolarmente un benchmark, sicuramente non è un FPS, non è un MMO, per cui è chiaro che non noterai facilmente input lag e cose del genere, però ti posso dire che nell'esperienza mia di giocatore comune, quindi non di hardcore gamer eccetera, non c'è modo di percepire latenze, ritardi, difficoltà, quindi dal punto di vista tecnico ormai abbiamo sdoganato il concetto. La differenza la faranno sempre comunque i giochi, e tant'è che a questo punto sia Amazon con Luna sia Google con il suo progetto staranno cercando di investire in proprietà intellettuali, quindi in esclusive che portino i giocatori verso la loro piattaforma piuttosto che un'altra, perché è chiaro, fino a quando su Stadia puoi giocare il gioco di terza parte, ma poi ti arriva il The Last of Us della situazione, il Gears of War della situazione, tu sceglierai la piattaforma che ti mette a disposizione in esclusiva quel gioco, perché vuoi giocare a quel gioco, a prescindere dalla formulazione, che sia la console, che sia il cloud. A quel punto tu ti focalizzerai su quello che vuoi effettivamente, che è quel gioco. Sì, anche se io c'ho una domanda per Carlo, prima di tutto, se secondo te, se tu ti sei posto la domanda sul come tecnicamente è possibile questa assoluta quasi azzeramento di input output tra giocatore e sistema. C'era quella cosa predittiva che prevedeva il movimento. Ma guarda, io infatti è inventata questa cosa della latenza inversa, cioè predittivamente stabiliscono un range di opzioni che l'utente può, ma per forza, di ragazzi, fare. Cioè qualcosa deve essere, no? Cioè nel senso, cioè io alla fine comunque ci sono decine di articoli che lo spiegano comunque, ma sì ci sono parametri fatti con big data e con algoritmi predittivi basati appunto su analisi di cosiddetta intelligenza artificiale, la metto sempre tra virgolette perché ovviamente stiamo parlando non di intelligenza vera ma di statistica alla fine. Comunque sono anni e anni e anni che stanno facendo questo tipo di algoritmi, quindi è ovvio che li miglioreranno sempre di più nel futuro. Alla fine ci scopriamo che non siamo noi a giocare. È anche semplicemente un'evoluzione della banda, dell'hardware, in generale anche dalla parte del lato server. Praticamente adesso quando tu giochi a Stadia, dall'altra parte c'è un server dedicato a te. In pratica, sì, cioè, una virtual machine che si istanzia, esatto, per il tuo gioco, e ci sei solo tu su quell'istanza. Esatto, quindi sono macchine che sono decine di volte più potenti, cioè una macchina virtuale di quel tipo, lato server farm, è praticamente l'equivalente di un super PC da super mega gaming da 4.000 euro che ti sei comprato a casa. Sì, anche Google ha investito su architettura AMD, Ryzen eccetera come le console, mentre invece ovviamente GeForce Now si basa sulla loro tecnologia proprietaria. Esatto. Comunque il discorso del, cioè, secondo me, non so se siete d'accordo un po' su questa questione, perché allora chiaramente il cloud gaming di cui stiamo parlando noi è quello nudo e crudo, no? Nel senso, quello proprio per gamer, però in realtà se noi estendiamo oggi quello che sta diventando un po' il mondo del videogioco, cioè quindi anche quella parte dei videogiochi che poi in realtà assomigliano, diciamo, o si associano, si avvicinano molto più a quello che è l'intrattenimento un po' più tradizionale, rendendolo interattivo, cioè vediamo che in effetti comunque per esempio società come Netflix alcune sperimentazioni l'ha fatte, no? Quindi alla fine, sì. Perché questi grossi competitor non si mettono anche loro a fare dei contratti magari esclusivi temporanei con il gioco di Rockstar o col gioco di perché è proprio lo faranno. Perché è tutta la... probabilmente alcuni lo faranno. Lo faranno sicuro. È solo una questione di tempo, Simone. Ok, no, e questo volevo sapere, insomma. Quindi dopo aver capito che non siamo noi a giocare, ma è l'intelligenza artificiale e che Netflix ci farà giocare con lo stesso abbonamento, io sono contento, sto a posto così. Marco, tu sei contento? Assolutamente, quindi praticamente tu ti siedi e guardi, basta che guardi. Vabbè, quello che già fai in fondo. Comunque esatto. Simone, volevo solo dire una cosa riguardo a quello che hai detto tu prima, cioè del fatto quando hai detto questo mondo dei giocatori che è limitato, che è diciamo separato dal mondo di quelli che invece vedono i programmi, le serie TV, il cinema e la musica. In realtà è solamente una questione generazionale, cioè ed è esclusivamente una questione generazionale, perché se io ho mia figlia che ha 20 anni e il suo ragazzo ne ha 22, e se guardo quella generazione lì di ragazzi tra i 20 e i 22 anni, che sono i giovani adulti di adesso, loro non fanno nessuna differenza tra un divertimento di tipo videogioco e il divertimento di tipo film o musica. Per loro li usufruiscono allo stesso modo, cioè per loro sono la stessa cosa. Esatto. Cioè, questo poi risponde anche a un gioco, guardano un film, ascoltano la musica e tutti giocano ai videogiochi. Questa cosa risponde anche a un'altra domanda, Carlo, che il salto generazionale, che è quello dovuto al discorso del gioco boxato, del fatto del possesso della propria copia, che è un problema che ci poniamo noi, che lo abbiamo vissuto, ma le nuove generazioni gli frega niente. Cioè, il concetto di possedere fisicamente la copia del gioco piuttosto che la copia del film non gli interessa minimamente. Per loro la soluzione è data dalla piattaforma. È vero, però c'è una differenza di tipo, questo è vero, nel anzi, senso scusa, che hanno dato anche un altro dettaglio, scusa Carlo, aggiungo anche questo, il fatto che stanno centralizzando sempre più la fruizione sullo smartphone di qualunque cosa, che sia il gioco, che sia la serie TV, che sia il film. Noi ancora facciamo una sorta di analisi critica e diciamo ok, il film me lo voglio godere sul videoproiettore spaparanzato in poltrona col 5.1, il videogioco lo voglio fare col PC seduto sulla sedia da gamer con il joypad tal dei tali e così via, e magari la serie TV o la musica posso accettare di sentirla sul cellulare mentre sono in macchina. E loro no, loro centralizzano tutto sullo smartphone e non percepiscono, con le dovute eccezioni, non percepiscono più non danno importanza a certi aspetti che consideravamo noi più fondamentali. Ecco, almeno io molti li vedo così. Vabbè, ma anche perché si va verso un'ibridazione del dispositivo, cioè nel senso che si va verso una cosa che è più universale rispetto a come, cioè una volta per noi era il cellulare, oggi è comunque un dispositivo più ibrido e si andrà verso un qualcosa di ancora più ibrido da quel punto di vista. Però vuoi mettere Simone, il primo titolo che mi viene in mente, vederti un Blade Runner 2046 con un 4K HDR 120 pollici, l'audio 7.1 paravanzato in poltrona. Vabbè, hai un'esperienza audiovisiva generosissima, lo vedi sul cellulare con le cuffiette, ma che hai visto? Ma io penso che una cosa non esclude l'altra, però cioè nel senso esatto. No, certo. Cioè, un po' come su The Expanse, il tizio col dispositivo che alla fine faceva così con la mano e la cosa sul dispositivo andava sul monitor gigante. Cioè, vuol dire, alla fine già succede, esatto. No? Cioè. Però scusami, per rispondere velocemente, prima riguardo al media fisico, che hai accennato il discorso che loro non lo vivono e quindi non gli interessa. È vero perché non lo vivono e non gli interessa, ma l'importanza che davo io non è tanto il fatto che a loro non interessi, ovvio che chi non l'ha vissuto non gli interessa, a noi interessa perché l'abbiamo vissuto, ma il media fisico e il possesso della copia io ne faccio più un argomento differente, più proprio di libertà di fruizione di un contenuto. Cioè, sì, ma anche io, una volta che l'ho pagato lo vedo quando voglio, sono d'accordo. Sì, è anche proprio il fatto di si aggancia tutta una serie di argomenti, tra cui anche il copyright, la copia privata, il discorso della diffusione, il discorso della preservazione, cioè c'è un mondo lì dietro. Cioè, e la differenza che c'è tra servizio e bene, dai, questo è un altro discorso che purtroppo è un altro discorso più ampio, apre mille discorsi, esatto. Però quello che volevo dire, poi ovviamente ogni nativo della propria realtà è che cioè percepisce quella realtà come, come sua, non è che alla fine noi ci scherziamo sopra, ma quella volta, Alex se lo ricorderà, quella volta che facemmo la puntata con sul Vigamus, cioè intervistammo quel bambino, lui dice il presente è adesso, il passato sti cazzi, no? Poi fondamentalmente, diciamo che... Quel bambino che poi è morto, giusto? No, non lo so, no, speriamo di no. Però diciamo che no, cioè, dal suo punto di vista è chiaro che è così. Io e Alex... e Carlo probabilmente, ma anche Walter e Marco, però in generale per riconvolgere anche un attimo Alex, e facciamo parte di una generazione che questa trasformazione l'ha vista quasi tutta, cioè dall'inizio dell'informatica al video digitale, all'intrattenimento interattivo, diciamo abbiamo visto un po' tutto... una grande parte dell'arco di questa cosa è che noi quindi il passaggio dal bianco e nero a colore in poi ce le siamo fatte tutte, più o meno consapevolmente. Tra l'altro, vabbè, magari c'era già il colore quando ero ragazzino io, però magari sì, il primo televisore che ho avuto era bianco e nero, no? Nel senso, quindi esatto. Noi abbiamo, Alex, magari la percezione, no? di tutta questa grossa trasformazione e di quello che in realtà stiamo guadagnando e allo stesso tempo anche di quello che stiamo perdendo, perché è inevitabile, no? È inevitabile. Bene. Grazie. Allora, il bambino secondo me non è morto, ma nei miei piani sta girando una ruota infinita modello Conan il Barbaro da quando ha quell'età. Ok, poi andrà avanti per sempre. Avevo il dubbio che tu e Simone l'aveste lasciato andare così. No, ma gli è stato detto di tutto al bambino, quindi insomma, poverino. Io mi ricordo qualcuno che proprio gli ha tirato dietro che se ero il padre l'avrei anche denunciato, vabbè. Allora, secondo me il bambino a questo punto vivrà le sue trasformazioni come qualcosa che lo feriranno, anche lui avrà dei momenti di viviamo nel passato, le cose erano belle quando eravamo giovani, quando eravamo belli. Come succede per tutti, certo. Quando avevamo il futuro, tutta la vita davanti, ognuno di noi ha le sue, i nostri genitori hanno le loro, i loro genitori eccetera eccetera eccetera eccetera. Sì, noi siamo stati quelli che hanno vissuto la transizione tra il mondo analogico e il mondo digitale, con tutto quello che ne consegue, transizione tra il mondo non globalizzato e il mondo globalizzato, abbiamo vissuto la caduta del muro eccetera eccetera eccetera, stiamo vivendo il Covid, per cui cacchio c'è, a noi non ci manca praticamente nulla oltre alla pensione. Esatto. Che non avremo. Che esatto. Non avremo, sì, ma io non sono mai veramente neanche pensato. Sì, cosa vuoi che ti dica? No, niente. Questa cosa del fatto che no, facciamo il discorso di chi non ha più la percezione, ovviamente la differenza tra intrattenimento interattivo, non interattivo, copie fisiche o non copie fisiche, perché giustamente sono nati in quella generazione e quello percepiscono ed è anche giusto che sia così. Cioè, come noi abbiamo solo avuto questa fortuna, che magari sarà una fortuna diversa per loro, quindi vedendo magari altre trasformazioni, però noi l'abbiamo vista un po' tutta, no? Dal fatto di comprarsi la videocassetta all'oggi vedere il film su Netflix e poi se su Netflix lo levano il film non lo vediamo, diciamo, insomma un po' questo che... Sì. Allora, l'ultima cosa che dico, che l'ho sentito oggi in un podcast che a me non piace, però hanno tirato fuori una cosa interessante, cioè negli anni 80 non è che eravamo più creativi, più volevamo scoprire, eravamo quattro gatti sfigati, eravamo noi nerd, quelli che nell'accezione più negativa del termine, quelli che si inventavano queste cose. Non è che adesso sono tutti nerd, sono tutti fanatici dei fumetti, dei manga, degli anime, sono tutti fanatici di queste cose qua. Secondo me la percentuale è rimasta quella, solo che adesso c'è molta più comunicazione e ne viviamo di più. Essenzialmente quelli che non gliene fregava un cazzo del computer, oh, sono sfigato, sono gli stessi che erano il 99%, sono gli stessi 99% che adesso usano il cellulare per giocare a Candy Crush, per andare su Facebook, per Instagrammare, per TikTok, cioè non cambia assolutamente niente, siamo solo un pochettino più connessi, un po' tantino più connessi. Certo, e poi questa cosa del nerd è in piano editoriale, perché è un altro dei temi suggeriti da Carlo. Va bene ragazzi, io direi facciamo un giro finale su questo discorso del cloud gaming, che poi alla fine è quello che ci interessa di più. Io devo dire, sono veramente sorpreso e meravigliato, a volte ho la sensazione che mi sta a prendere per culo sta cosa, perché perché non può essere, no? E quindi vabbè, voi l'avete anche un po' abbozzata la spiegazione, però chi se ne frega, no? Nel senso, alla fine il poter usufruire di cose che altrimenti non potrei usufruire è una cosa caruccia. La cosa... Se tu non lo sai, ma ti stai domandando la fatidica domanda, sei tu che giochi il gioco, esatto, o il gioco che gioca te, esatto, bravo, infatti è proprio quello. Però sarebbe bello appunto ritornare ad osservare quelle che sono le varie offerte, perché oggi il problema secondo me sono gli abbonamenti, il fatto che devi comprare i giochi, insomma secondo me il cloud gaming si deve più Netflixizzare, diciamo, da quel punto di vista, perché alla fine, cioè, oggi i costi ancora non sono poi così accessibili, a meno che dici ok, voglio fare questo investimento perché, come ha fatto giustamente Walter, c'è Cyberpunk, lui vuole giocare a Cyberpunk e magari per un altro po' di tempo chiude l'abbonamento perché non gioca niente, insomma, diciamo così. No, ma Simone, ti correggo, scusami, io non sto pagando nessun abbonamento. Tu non stai pagando nessun abbonamento, ma pagate il gioco, però. Io ho comprato il gioco, però se l'avessi preso per PlayStation 4 avrei pagato la stessa cifra, non sarebbe cambiato nulla. Ma perché la differenza è che c'era l'abbonamento nel preordine. Che funziona, cioè. No, allora ti chiarisco come funziona in questo caso Stadia e poi magari la differenza con GeForce Now. Stadia ti permette di usufruire di due modalità. La prima è quella di abbonarti al loro pacchetto Pro, all'interno del quale ogni mese ci sono dei contenuti disponibili nel costo dell'abbonamento. Sono alcuni giochi che scelgono loro periodicamente, come PlayStation Plus, ok? Pagare il Stadia Pro ti permette inoltre di sbloccare delle feature aggiuntive, cioè puoi giocare in 4K, HDR se il tuo televisore supporta questo standard, e con l'audio 5.1, ok? I giochi però sono sempre quelli che tu ti compri e ti tieni in libreria, o quelli che sono in dotazione mese su mese. Io non ho fatto altro che comprare solo ed esclusivamente Cyberpunk, aderendo ad un'offerta per la quale al costo del solo Cyberpunk mi hanno dato anche una Chromecast 4K e un controller Stadia, ma questo è un'offerta promozionale che poco è una batteria conta. Di pentole e una bici con, esatto, cavi Shimano. Esattamente. Il discorso qual è? Che viva Mastrota! Vai, scusa. Siccome io non ho un display 4K, non ho bisogno di pagare Pro per giocare a 4K. Quindi sostanzialmente ho comprato solo il gioco e posso giocarci quanto mi pare fin quando ce n'è. A me sta cosa non me l'ha fatta fa. A me mi ha fatto fa per forza l'abbonamento Pro con i 3 mesi gratuiti. Cioè, proprio non, senza abbonamento non me l'ha fatto fa. Non so perché, non so per come. L'abbiamo provato insieme a Francesco, anche con due account diversi, ma non ci sono stati cazzi su sta cosa. Quindi, sbagliato qualcosa io. Insomma, per giocare a Cyberpunk devi possedere la copia di Cyberpunk nella libreria Stadia. E dopodiché non conta avere. Non serve avere il Pro per giocare, ripeto, col limite di 1080p audio 2.0. Non lo so qual è stato l'inghippo che vi è capitato, oppure probabilmente hai creato un account Stadia da zero e quindi ti hanno fatto usufruire della prova di 2 mesi di Pro gratuita, perché evidentemente è una condizione sine qua non. Tu hai attivato un nuovo account, ti devi fare 2 mesi di Pro e poi te li disattivo. Potrebbe essere questo la differenza. Non lo so, però è l'unica cosa che potessi fare, quindi cioè non è che c'avevo alternative, insomma. Però non li hai pagati, No, non l'ho pagati, però comunque ho dovuto inserire la carta di credito e tutto quanto, e mi ha fatto del culo sta cosa, devo dire la verità, insomma. Però vabbè, dai, comunque non è questo il problema. E quindi vabbè, la tua conclusione è che comunque tu, diciamo, sia per questa specifica esperienza, magari per esperienze future, comunque per ora sei comunque soddisfatto oggi si può fare. Ma da un punto di vista tecnico, con questo tipo di giochi oggi si può fare. Poi io l'ho scelto perché volevo giocare specificamente a quel gioco, questo non significa che domani ne giocherò altri o chissà quali. Sì, quando ci saranno dei giochi che mi interessano, il costo potrà essere ragionevole. Poi questa volta mi ha detto veramente di culo, perché l'alternativa era comprarlo per PlayStation 4 normale. Un uccellino mi ha detto, sai, una specie di voce nell'orecchio, e guarda, lascia perdere, sulla PlayStation 4 non ne vale proprio che tanto la pena. Ho detto, sai che c'è, proviamo Stadia, tanto peggio di così. E mi ha salvato, perché ne parliamo venerdì di questa cosa nella prossima puntata di venerdì. Adesso vi confermo che sia venerdì la prossima puntata, dovrebbe essere. Ma venerdì non è il primo infatti ho detto una stronzata. Capodanno. Esatto. Vabbè, probabilmente potrebbe essere o venerdì o sabato, ma vediamo. Insomma, sì, comunque, questa settimana ci sarà la prossima puntata. Nella prossima puntata di Ludico Forum parleremo proprio di questa cosa di Cyberpunk, dei annessi e connessi. Così poi vedremo anche l'esperienza. Alex, quindi comunque, cioè, vabbè, te proprio non te frega, però insomma, comunque diciamo che il fatto di poter andare verso un sistema in streaming che è simile, insomma, a quello dell'altro tipo di intrattenimento. Alla fine, insomma, cioè, i tempi sono maturi, secondo te. Le console moriranno. Sì, sì. Ma probabilmente questa è l'ultima generazione di console fisiche. E anche se probabilmente Nintendo farà ancora tipo 20 anni di roba fisica prima di switchare da qualche altra parte. Non so, sarebbe una console. Però Nintendo è un mondo a parte, eh? Cioè proprio continua, sì, a essere un mondo a parte. Che sono contento che ci sia. Sì, loro puntano alla loro nicchia e il resto gli interessa poco. Nicchia in cazzo. Cioè, comunque, esatto. Però, insomma, al loro target, scusate. Bene, Marco. Infatti, scusa, vai. Bene. Scusa, finisci. No. Poi, comunque, sì. Io sono anche molto curioso e molto contento di questa cosa. Anche se sempre di più la mancanza di possesso. Che fu pre-Alessandrino. Volatile. Che il possesso del possesso che fu pre-Alessandrino. Posso fare una considerazione sul discorso del possesso? Perché io vivo questo paradosso dentro di me quasi quotidianamente, soprattutto con quello che sono i film e le serie TV. Io sono pieno di Blu-ray e di DVD perché mi è sempre piaciuto comprarli, vederli, fruirli, eccetera eccetera. Conosco bene la differenza di qualità tra vedere un film in Blu-ray e il corrispettivo su Netflix, perché non c'è paragone, l'audio non compresso, la qualità dell'immagine maggiore, cioè non si può dire che la versione digitale che vedo su Netflix sia uguale a quella che posseggo in DVD, in Blu-ray, scusate. Eppure tutte le volte che potrei vedere un film che posseggo fisicamente, guardo il lettore e dico: ma chi me lo fa fa? E premo. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Però scusa, perché tutta la fantascienza che amiamo e che guardiamo cioè, ci dimostra un mondo completamente afisicizzato da sto punto di vista. Cioè, quindi non vedo perché questa cosa ci dovrebbe turbare. Io non sto dicendo che è bello o che è brutto, è che sta facendo diventare i prodotti ancora più usa e getta. Perché vivono il momento, cioè un po' come una fiamma che vroom, brucia in un attimo, poi dopo non c'è più. Poi magari ci sono dei capisaldi, dei film che rimangono, io parlo del film, perché, oppure degli album che ti rimangono così, o delle canzoni, ma forse perché sono più vecchio io, però mi sembra di capire che comunque tutti i mercati si stanno spostando in qualcosa di consumo, consumo, consumo, e poi dimenticatene, perché se no ti rendi conto che è uguale a quello. Si chiama capitalismo, sì, quindi però anche questo è un altro tema. Marco, invece tu sei contento di sapere che già oggi potresti giocare a Red Dead Redemption 2 senza buttare il computer? Posso. No, puoi. No, non posso. Con la sua connessione. Ah, già, no. È vero, tu c'hai il problema della connessione, è vero. Vabbè, dai, se vuoi vieni a casa mia a farlo, se vuoi attacchiamo il videoproiettore, se mettiamo lì come i vecchi. Possiamo fare un cavo molto molto lungo da casa anche, tua. Anche. Non so quanto si perdano le informazioni nel cavo molto molto qualcosina lungo. Qualcosina si perde. Però diciamo che noi The Redemption 1 ce lo siamo giocato insieme in varie serate, in varie sessioni, ci siamo anche ammazzati dalle risate, tutto sommato. È stato uno dei giochi in cui ho riso di più in tutta la mia vita, quindi. Guarda, se giochi un po' a Cyberpunk credi molto di più, ma involontariamente, insomma. Ma è la stessa cosa, perché vedere i cavalli che volano nel Grand Canyon così involontariamente, insomma, è sempre una cosa divertente. Poi vi farò vedere la scena fantoziana di una persona seduta su un divano, ma il divano non c'è. Ah sì, vabbè, ma succede. A voglia. L'ho detto che Bethesda, sì, sì, ma cioè, i giochi Ubisoft, voglio dire, c'erano i personaggi che scascavano sotto al mondo del gioco, quindi figurati, insomma. E niente, Carlo, con la tua conclusione rispetto a questa cosa del cloud gaming, se comunque, anche se così in prima persona, la cosa ti interessa al di là del fatto di essere un osservatore? Certo, allora, nel senso che mi interessa relativamente, nel senso è l'evoluzione prossima del mondo del videogioco, quindi se vorrò giocare adesso con mio figlio, cioè abbiamo l'abbonamento di PlayStation Plus sulla PS4 e poi avremo qualcos'altro per giocare, ma quello è semplicemente l'evoluzione. Diciamo che c'è un aspetto che mi preoccupa, al di là del possesso fisico, che come ho detto, quello pone dei problemi vari di altro tipo. Quello su cui mi preoccupo, e che lo sai bene, è il discorso invece del discorso storico della preservazione, dello studio, perché un po' l'ha accennato anche Alex, cioè il cloud gaming come il cloud che abbiamo adesso per quanto riguarda lo streaming dei film e della musica, porta a un'apoteosi del consumismo, cioè il prodotto diventa esclusivamente usa e getta, diventa veramente fatto per durare poco la maggior parte dei prodotti. Certo. E quindi quello che prima un videogioco brutto degli anni 80 che non aveva successo, piuttosto che una musica brutta del passato o un film brutto, quando il media era fisico, adesso hai la possibilità spesso di recuperarlo, di ristudiarlo, di capirlo, di vederlo, magari di rivalutizzarlo, di contestualizzarlo in un determinato periodo, perché asterisco, qualcuno di voi ha visto il film di Cats? Domanda. Mamma mia. Perché, no, nel senso, perché io non l'ho visto e non so dove trovarlo. Ecco, appunto, vedi. Penso già che l'abbiano cancellato dalla storia. Bravo, esatto. E questo effettivamente. E questo è il male. Questo è il male. È un problema, perché quando non c'è più il media fisico, se una cosa non l'hanno vista, non l'hanno comprata, non l'hanno venduta, non ha lasciato una traccia dal punto di vista della sua importanza, non esisterà mai più. Esatto. A meno che chi l'ha prodotto si sforzi di tenerne una copia da qualche parte. E diventa, per molte cose, diventerà un problema, secondo me diventerà, non solo secondo me, è un problema che bisognerà affrontare, e non vedo ancora una soluzione a questa cosa, francamente. Beh, però sì, poi tra l'altro anche questo è un altro tipo di discorso che noi sappiamo, già la 1X05 sarà totalmente dedicata a questo argomento, sia in ambito videoludico che in ambito multimediale in generale, ma non soltanto, perché questo è un problema che da adesso in poi può incominciare a rappresentare, entra pure nell'universo dei libri, quindi insomma è tutto un discorso che è abbastanza complicato. Infatti la 1X05 si chiamerà proprio Dannatio Memorie, che è ovviamente questo il vero problema dell'era digitale, insomma, una cosa che ha avuto corso nella storia centinaia di volte, magari negli ultimi 2 o 3 mila anni, che oggi invece può diventare un problema incombente reale, ma insomma appunto ci faremo una puntata, quindi non ci soffermiamo adesso, però è giusto comunque l'appunto di Carlo. Allora ragazzi, io direi che questa puntata è stata caruccia, insomma su quelle puntate insomma così dove facciamo dei temi diciamo preordinati, poi si comincia andando un po' a casaccio, che secondo me è il modo migliore per poter poi fare un ragionamento, che poi è lo scopo di Ludico Forum, ad essere un forum, a stare lì e discutere insomma tutti quanti insieme. Io vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Vi ricordo che questa mattina alle 6 è uscito l'ultimo episodio di Tecnopills di Alex Raccuglia. Alex, vuoi dire di che cosa si parlava? L'ultimo episodio dell'anno, non dell'ultimo episodio. No, è stato un episodio corale in cui molti di noi, e anche qualcuno che sta fuori da Runtime, abbiamo parlato di un argomento spinoso in maniera anche relativamente leggera, ma non per questo non seria, cioè l'etica dell'intelligenza artificiale. È un episodio molto lungo, dura più di 1 ora e mezza, però ci sono gli interventi di 10 persone diverse, che ognuna delle quali racconta il suo punto di vista, per cui secondo me è una di quelle cose che può anche essere ascoltata a pezzi, uno per ogni persona che ha contribuito, e può essere secondo me un bel episodio. Bene, e quindi ti ringrazio e ti saluto Alex per questa tua partecipazione. Poi ci saranno appunto altre puntate, come proprio questa qua appunto di cui abbiamo detto, della Dannatio Memoria, che magari torneremo, perché è un discorso secondo me a largo campo, una cosa che avete tirato fuori in questo episodio, ma appunto come abbiamo detto in piano editoriale era già contemplato. E ringrazio e saluto anche Carlo Sant'Agostino. di archeologia informatica che prima o poi torniamo a fare non devo dirlo io. È sempre colpa mia alla fine, insomma, vabbè. No, noi abbiamo lì una puntata da pubblicare, quella della seconda di coso. Sì, sì, in effetti sul canale YouTube hai ragione, ci sono delle cose che dipendono da me. Per quanto riguarda il podcast invece abbiamo in ballo due idee, però insomma dobbiamo coordinarci un attimino per riuscire a farle. Soprattutto una è carina, forse un po' meno storica rispetto a tante altre, ma insomma è abbastanza carina. E quindi ciao Carlo e grazie di aver partecipato. Ringrazio invece Walter Sbano anche per lo spunto iniziale, che è quello un dot attacco, che insomma. Grazie a voi e ci diamo appuntamento alle prossime serate, perché comunque insomma passeremo lietamente le prossime serate, visto che faremo anche, lo possiamo dire anche qua, faremo il Capodanno insieme, oltre che poi la prossima di videoludica su Cyberpunk and Company, giusto Simone? Esatto, faremo la prossima di Cyberpunk prossimamente, poi passeremo la notte del 31 intorno alle 23, insomma scavalleremo la mezzanotte per farvi gli auguri di Natale, così come abbiamo fatto anche per Natale, e poi lunedì prossimo si ritorna anche con OGM, che oggi è saltato per dare spazio, no, anche perché abbiamo fatto festa poi non l'abbiamo fatto festa. Ogni tanto ci vuole, dai, ci vuole, perché meno male, se no avrei parlato male di De Luca per un'ora e mezza. Ok. Ok. E ringrazio e saluto Marco Gualdi che sta davanti al suo televisore 4K, giusto? Esatto, sto spento abbronzando, perché così è ancora più perfetto. Mi sto abbronzando PC. Bene. Bello. Buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Suggeriteci temi, commentate nelle puntate, diffondete e date possibilità a questo nuovo format appunto di crescere. Ciao e alla prossima puntata. Ciao, buonanotte. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.